Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria ha visto le borse di nuovo in altalena, ma soprattutto c'è Milano che soffre più delle altre, e soffre più delle altre per via delle banche. In realtà, se andiamo a guardare i vari titoli a Piazza Affari, ce ne sono molti positivi e anche parecchio positivi. Penso a Saipem più 8,20%, Fondiaria più 6,2%, Terna più 6%, Mediolanum più 3, Lottomatica più 3, Monte dei Paschi più 2,7, Seat più 2,5, Italcementi più 2 come Atlantia, UBI Banca ed Enel più 1,7, Fastweb più 1,5 e 1,2 guadagnano anche ST Microelectronics ed Unipol. Questo per quello che riguarda i titoli positivi, che come avete sentito sono, non sono pochi. C'è un problema però su due colossi bancari, i due colossi bancari in Italia. Intesa e Unicredito fanno una staffetta in negativo tra chi perde più oggi in borsa, sono i due peggiori titoli comunque da inizio seduta. Adesso Unicredito perde il 9,80%, Intesa l'8,20%, ma un'ora fa era il contrario, Intesa perdeva il 10%, Unicredito il 9%. E poi c'è anche Autogrill che perde il 5%, Generali il 3,70%, Impregilo il 3,4%, la Popolare di Milano il 3,2%, Telecom perde il 2,7%, A2A il 2,4, Bulgari il 2,1, Luxottica perde il 2% e Prysmian e Buzzi Unicem l'1,5. Però insomma, il motivo per cui complessivamente l'indice MIBTEL cede l'1,1%, l'S&P MIB l'1,90% ed è oggettivamente l'unica borsa in questo momento in negativo Milano in tutta Europa, e il motivo si chiama Intesa da un lato e Unicredito dall'altro. E di questo parleremo in apertura, per capire come mai, dopo che ci siamo sentiti dire, immagino correttamente, che le banche italiane erano meno esposte e dopo che la buriana più forte si è scaricata sulle banche tedesche, britanniche, francesi, belghe e olandesi, adesso gli altri indici sono tutti positivi. Parigi guadagna lo 0,6%, a Bruxelles il rialzo del 2%, a Francoforte il rialzo dell'8%, e qui c'è di nuovo la vicenda Volkswagen. Ieri il titolo ha guadagnato il 140%, 170%, scusatemi. Ma è positiva e non di poco anche l'America, quasi il 2%, più 1,80%, Londra più 1,4%. Insomma, in un panorama del genere, in cui questa mattina, tra l'altro, Hong Kong aveva guadagnato il 14% e Tokyo il 6,4%, e beh, in un panorama del genere lascia perplessi vedere Milano calare di quasi 2 punti percentuali sull'S&P MIB, e soprattutto adesso Unicredito è stata sospesa, e soprattutto le due principali banche del paese perdere così tanto. Qui c'è da chiarire su Unicredito, già l'aumento di capitale varato da 6 miliardi l'aveva detta, aveva fatto capire che c'era un bisogno di ricapitalizzare per le perdite registrate su alcuni investimenti. Su Intesa non sappiamo obiettivamente nulla, perché la banca ha sempre smentito di avere grandi esposizioni e quindi di dover fare grandi svalutazioni per via dei prodotti tossici americani, eppure adesso è a 2 euro per azione e in calo dell'8%. Ancora parleremo di Alitalia, è da poco finito infatti il consiglio di amministrazione della CAI, mentre domani si rivedrà la CAI con i sindacati. Parleremo anche degli Stati Uniti, perché nel frattempo a Wall Street, nonostante l'indice vada bene, stava crollando Goldman Sachs, oltre il 20% di calo, e Merrill Lynch perdeva oltre il 10%, e ne approfitteremo anche per capire, praticamente a meno di una settimana dalle elezioni americane, quale sia l'impatto. Noi di ricette forti da Obama e da McCain non ne abbiamo viste, ma magari ci sono sfuggite. In questo momento è Bush e Paulson, sono Bush e Paulson a tenere ancora in mano il boccino, però è anche ora di iniziare a fare un conto alla rovescia per la grande notte elettorale, che vi anticipo Radio 24 seguirà con una diretta dalle 10 di sera fino alle 11 di mattina anzi a dire il vero alla fine fino all'una di pomeriggio del giorno dopo. L'euro, parleremo anche di valute, perché oggi lo yen ha raggiunto un rapporto di forza notevolissimo sull'euro. L'euro continua a essere debole rispetto agli ultimi mesi, 1,25 nei confronti del dollaro. Parleremo anche di Finmeccanica, perché in questo periodo di vacche magre, ieri abbiamo detto vacche anoressiche più che magre, Finmeccanica oggi in un'intervista a Sole 24 Ore ha confermato il dividendo 41 centesimi di euro per azione anche per il 2009, e in questo periodo, ripeto, non è poca cosa confermare il dividendo, quindi gli utili distribuiti agli azionisti anche per l'anno prossimo. Ancora vedremo di trattare il tema delle prime iniziative che arrivano su base regionale a sostegno delle piccole e medie imprese. Oggi la Regione Lombardia ha annunciato, lo ha fatto lo stesso Presidente Formigoni, che per aiutare le piccole e medie imprese ad affrontare la crisi internazionale dei mercati sta mettendo a punto un pacchetto di misure che in tutto valgono 3 miliardi di euro, a cui le piccole imprese lombarde potranno accedere presso le banche, anche perché si tratterà di prestiti garantiti dalla Regione Lombardia stessa. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Il petrolio leggermente in rialzo, però siamo a 64 dollari al barile, mentre dal Kazakistan il ministro dell'energia kazako ha fatto sapere che entro fine settimana sarà firmato l'accordo per concludere la trattativa sul progetto di Kashagan con il consorzio che vede l'Eni capofila, il consorzio Agip KCO, e quindi dovrebbe chiudersi una vicenda che aveva visto a suo tempo il governo kazako ridefinire gli accordi perché voleva approfittare anche degli altri pezzi del petrolio e lamentava i ritardi nello sviluppo del giacimento di Kashagan. Sempre in tema di Eni, oggi a Londra, durante la conferenza Oil and Money, il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, ha detto che il prezzo corretto ragionevolmente per il petrolio è tra i 70 e gli 80 dollari al barile. E per quello che riguarda poi invece i dividendi dell'Eni, ha detto che è sostenibile, quindi di fatto può essere confermato anche con un prezzo del petrolio a 40 dollari al barile. Comunque l'Eni renderà noti i dati della trimestrale venerdì prossimo. È crollata la fiducia dei consumatori americani al minimo dal 1967, ecco perché diciamo che poi questi elementi entrano a gamba tesa nella contesa elettorale americana. L'indice è arrivato a quota 38 da quota 54, e con gli economisti che ormai non azzeccano una, avevano previsto un calo dell'indice a quota 52. Insomma, a 38 non lo si vedeva dal 1967, e questo fa temere che vi sarà un vero e proprio crollo dei consumi in America. Tra l'altro, come una notizia di colore, ve l'ha già raccontata il nostro GR Extra Large alle 13, oggi praticamente Sotheby's ha ritirato l'asta per la vendita del famoso Arlecchino di Picasso, perché nessun acquirente si è presentato. L'Arlecchino, il dipinto, viene valutato 30 milioni di dollari, e Sotheby's ha il timore che, vista la crisi dei mercati e dei grandi manager strapagati che poi compravano anche arte, teme che il dipinto in asta possa andare a prezzi troppo bassi, quindi ha proprio chiuso l'asta e ritirato il dipinto. Le aziende finanziarie mondiali hanno perso fino ad ora l'equivalente di 1.800 miliardi di sterline, una cifra colossale pari a 2.400 miliardi di euro. Questa stima l'ha fatta la Banca d'Inghilterra, che ha detto che per ora questo è il danno complessivo a livello mondiale della crisi che è ancora in atto. 2.400 miliardi di euro, una cifra colossale, pari a quasi due volte l'intero PIL italiano, solo fino adesso. Ebbene, sempre la Banca d'Inghilterra ha detto che ora come ora la crisi potrebbe causare in Gran Bretagna, creare danni e problemi in Gran Bretagna a 500.000 famiglie che rischiano di non farcela con il mutuo, e quindi di perdere la casa. Vabbè, tralascio una dichiarazione di Trichet che ha voluto spiegare come mai a luglio la Banca Centrale Europea avesse alzato i tassi, ha definito coerente la scelta presa a luglio perché c'era un problema di inflazione. Vabbè, insomma, la coerenza delle volte non è un segno di lungimiranza, mettiamola così, visto che poi dopo 3 mesi la Banca Centrale ha preso atto che la situazione era un po' diversa e che l'inflazione non è esattamente il problema adesso come adesso dell'Europa, così come il traffico non è il problema di Palermo, per usare la vecchia battuta di Johnny Stecchino. Comunque, vabbè, rivendica la coerenza Trichet e viva la coerenza. Mentre, andando avanti con i dati congiunturali, se l'Istat oggi ha fatto sapere che le retribuzioni in Italia a settembre sono aumentate del 4% su base annua, con un'inflazione del 3,8%, è uscita anche l'indagine rapida del Centro Studi Confindustria che ha detto in sostanza che la produzione industriale sarà stagnante ad ottobre. Allora, di Alitalia parleremo più avanti. Andiamo avanti con invece la Volkswagen, che dopo il balzo del 170% di ieri, e oggi tra l'altro sono arrivate a guadagnare fino al 90% le azioni Volkswagen a 1000 euro per azione, è diventato il primo gruppo per capitalizzazione al mondo, ha superato anche ExxonMobil, il colosso petrolifero. Per la precisione, capitalizza in questo momento Volkswagen 367 miliardi di dollari contro i 343 di Exxon. Allora, di nuovo sulla chiusura delle borse, ne ha riparlato oggi in audizione al Senato il numero uno della borsa italiana, Massimo Capuano, e a chi gli ha chiesto, ma insomma è pensabile che se dovessero essere altri venerdì terribili, lunedì neri, mercoledì diciamo grigi, le borse possano chiudere? Questa è la risposta. Ci sono state effettivamente delle borse che hanno chiuso tecnicamente anche per più giorni, come la borsa russa, come la borsa, se non ricordo male, di Giacarta. Cioè sono state delle borse di paesi emergenti o di borse che non hanno le strutture di un paese invece avanzato. Lì dove invece le borse hanno delle dimensioni, delle strutture, un'organizzazione e una regolamentazione adeguata, e questa è stata una posizione presa dalla Federazione delle Borse, è molto critico e delicato chiudere le borse, perché nella borsa c'è un valore molto importante che è la formazione di un prezzo. In assenza di negoziazioni sulle borse, quindi con questo prezzo regolamentato, non è detto che fuori dalle borse non ci siano ugualmente delle negoziazioni, che però in questo caso non avrebbero il beneficio di un prezzo che si viene a formare invece, come detto, dalla contrattazione, dall'incrocio di domande e offerta. Quindi nello sviluppo naturale anche di una crisi, il fatto però ugualmente di avere un prezzo formatosi regolarmente è ugualmente un valore. Allora, vediamo che cosa ci riserva oggi il diario della crisi, perché ci riserva anche un approfondimento sul rapporto valutario. L'euro è a 1,25 nei confronti del dollaro e ha perso circa negli ultimi 2 mesi il 14%, ma soprattutto negli ultimi 2 mesi l'euro ha perso il 30% sullo yen. Lo yen ha guadagnato anche il 24% sul dollaro. E come mai lo yen sale? Dicono gli operatori, la banca centrale giapponese ha tenuto i tassi bassissimi e molti investitori prendevano a prestito yen e li investivano su altri mercati valutari. Adesso è troppo rischioso fare questa operazione, quindi tornano a comprare yen. Vorrei capire anche come mai l'euro si è indebolito nei confronti non solo dello yen ma anche del dollaro, un 14% in meno negli ultimi 2 mesi, dopo che per anni abbiamo raccontato che il dollaro debole serviva all'America per esportare di più, che i capitali stavano sull'euro perché l'America è troppo a rischio di recessione, che i tassi comunque sono più alti in Europa e quindi la valuta si sposta da dove i tassi sono più alti perché il denaro rende di più. E vorrei che me lo spiegasse il dottor Massimo Papetti, già altre volte nostro ospite, opera sul mercato dei cambi, fa l'analista proprio per i cambi. Buonasera Papetti. Buonasera. Allora, abbiamo raccontato tante cose in questi anni, molte delle quali si sono rivelate così, di carta velina, o di carta pesta, o di carta straccia. Però una cosa era chiara, l'America ha una debolezza valutaria perché non riesce a esportare e quindi terrà il dollaro basso, i tassi sono più bassi in America che in Europa, per di più l'America è a rischio recessione. Ora mi spiega come mai l'euro è passato da 1,45 a 1,25? Ma diciamo che lo scenario che in questo momento stiamo vivendo sul mercato dei cambi è uno scenario al di fuori del controllo, c'è una grossissima volatilità, come diceva lei prima, cioè variazioni che così importanti, cioè il 30% su una moneta, il 20%, addirittura abbiamo avuto variazioni giornaliere del 12-13%, portano chiaramente a degli squilibri che non sono, definiscono il punto di equilibrio esatto. Ci troviamo di fronte al fatto che il dollaro in questo momento è sotto un effetto speculativo abbastanza importante, che è più legato però alla volatilità sul mercato dello yen. È inutile dire che la variazione più importante l'abbiamo avuta euro contro yen rispetto a euro contro dollaro. Sì, perché lo yen ha guadagnato in due mesi il 30% sull'euro, il che va anche bene per chi deve esportare in Giappone nell'area yen, però volevo capire perché, prego. Ma diciamo che il fattore più importante è legato appunto alle operazioni di carry trade, la riduzione. Queste operazioni di carry trade sono gli investimenti in altri mercati finanziandosi in una moneta che abbia un basso costo di interesse. In questo caso, come tutti gli hedge fund, gli operatori professionali o anche il singolo risparmiatore, si sono inseriti finanziandosi nel mercato lo yen con tassi relativamente vicini allo zero e hanno investito nella moneta americana, la moneta europea. In questo momento l'uscita principale avviene dalla parte europea, perché ci sono alcuni fattori che vanno a incidere su questo elemento. Uno, la paura appunto della recessione europea, che è probabilmente considerata più si tema sia più forte di quella americana, e quindi con maggiore difficoltà di cioè alla fine paghiamo sempre noi? Direi di sì, in questo momento. Cioè tutto questo, questa tossicità, questo virus viene generato, creato, gestito, fatto esplodere in America e poi le conseguenze più grosse le paga l'Europa. Sì, perché chiaramente l'Europa è considerata l'elemento più debole, più lento, più difficile da digerire questa situazione. Ma comunque non è l'unico elemento che può portare a queste decisioni, perché abbiamo chiaramente il fatto della riduzione di queste posizioni è dovuto molto anche al credit crunch, cioè alla riduzione degli affidamenti che le banche hanno fatto, certo, per poter fare queste operazioni, quindi l'obbligo di dover rientrare dalle posizioni e la riduzione degli investimenti nel mercato azionario. Un'ultima domanda, che livelli prevede nei prossimi mesi? Perché voglio dire, l'euro a me sembra comunque una moneta molto forte in questo panorama, 1,25 per carità è sempre un 25% in più del rapporto 1-1 euro-dollaro, ma insomma le vostre previsioni da qui, diciamo, a fine anno? Ma guarda, in questo momento è difficile fare le previsioni abbastanza semplici, cioè dire 1,25, la fascia di oscillazione sarà molto elevata e potremo veramente oscillare tra 1 e 1,50, perché la volatilità che si è creata su questo mercato non implica una posizione ferma stabile in questo momento. Grazie al dottor Massimo Papetti, grazie, analista e operatore del mercato dei cambi. E vabbè, e se quindi l'euro sta pagando le preoccupazioni, le previsioni addirittura più fosche sull'Europa che non sugli Stati Uniti, è vero che l'Europa è sempre cresciuta meno degli Stati Uniti, quindi se frena l'America magari chiude con un più 0,8, se frena l'Europa chiude con un meno 0,1. E vorrei capire che cosa, capire è una parola forse grossa, ma che cosa sta capitando sulle banche italiane, visto che tutte le borse europee hanno a questo punto chiuso positive, l'1,2 Parigi, il 9% Francoforte, ma lì c'è il caso Volkswagen che è un caso a sé, il 2% Londra, l'America guadagna 1,5%, Milano invece ha perso il 2% sull'S&P 1000. E il motivo, come abbiamo detto in apertura, si chiama sostanzialmente Unicredit, che ha chiuso con un meno 12%, intesa meno 9,4%. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. buonasera a voi. Dunque, di Unicredito abbiamo detto, stradetto, c'è stato l'aumento di capitale, le preoccupazioni sulla Bank of Austria, sulle controllate, diciamo, tedesche, Hypo Vereinsbank e anche l'Est Europa. Ma Intesa, cioè qui da capire è se, mi rendo conto che sia difficile, se gli operatori vendono anche, come abbiamo raccontato, sui titoli che sono sani, che vanno bene, ma vendono perché vogliono portare a casa qualche guadagno, visto che da altre parti perdono, oppure, visto che Intesa ieri ha perso un 10, oggi ha perso un altro 9,4 e a 2,1 euro, oppure si stanno indirizzando un po' di timori sulle banche italiane, anche su quelle fino adesso uscite abbastanza, non illese, perché hanno perso un 30-40%, ma non nell'occhio del ciclone. Alessandro. Ma io direi che il tema ovviamente esiste per le banche italiane, ma lo possiamo vedere solo se lo guardiamo nel contesto anche delle banche europee, delle grandi banche europee almeno, perché oggi, come dicevi giustamente, le borse europee hanno in alcuni casi fatto segnare segnali di ripresa, ma se si va a guardare il bilancio delle banche europee vediamo che in Francia BNP Paribas ha perso il 12%, Crédit Agricole il 13%, Société Générale il 13%, questo per dire le tre grandi francesi. In Germania il bilancio è simile, Commerzbank meno 10%, Deutsche Bank meno 9%. C'è quindi, diciamo, un problema che è a livello europeo, che riguarda il crollo di borsa di tutte le banche principali, in questo caso ovviamente Intesa non poteva rimanere estranea, e c'è il problema che i grandi fondi di investimento internazionali, i fondi pensione, gli hedge fund stanno liquidando le posizioni e vendono i titoli che hanno in portafoglio. Quelli delle banche sono quelli che avevano una presenza maggiore, date anche le loro dimensioni e anche dato il fatto che in questi ultimi anni erano quelli che erano cresciute di più, e finché purtroppo i fondi non avranno finito di vendere, via via che i riscatti da parte della clientela arrivano, loro sono obbligati sostanzialmente a vendere per problemi di liquidità, i titoli purtroppo vanno in ribasso, in qualche caso si tratta di crollo evidente, e in molti casi anche al di là poi dei valori fondamentali, perché se si va a guardare i risultati delle banche, dalla settimana prossima ci saranno le trimestrali anche in Italia, vedremo che almeno nelle attese le banche chiuderanno in utile. Quindi non è, diciamo, è il mainstream, il flusso generale europeo di calo su tutto il settore, e non un caso specifico. Tu hai fatto bene a citare anche cosa hanno fatto le altre banche in Germania e in Francia. In effetti Parigi ha chiuso bene, ma perché bene sono andati altri titoli della Germania, abbiamo già detto. E da noi il nostro indice è un indice in cui pesa molto di più rispetto ad altri paesi il settore bancario, ecco perché poi noi chiudiamo con un meno 2%. Impressionante comunque quanto hanno perso Intesa e Unicredito da inizio anno. Intesa San Paolo ha perso il 55%, senza contare oggi, quindi a ieri, e Unicredito il 70%, il Monte dei Paschi il 60%, la Popolare di Milano il 55%. Insomma, la capitalizzazione di Intesa San Paolo è passata da 76 a 26 miliardi, quella di Unicredito da 77 a 22 miliardi. In una battuta, Alessandro Graziani, quando, tu hai spiegato molto bene i riscatti, quando un cliente va al fondo e dice io voglio uscire, il fondo comune deve vendere, perché sennò come gli dai i soldi? Quando a tuo avviso questa ondata di vendite, di riscatti, quindi finirà e si potrà riequilibrare, anche i gestori potranno anche tornare a ricoprirsi? Ma perché questo accada ovviamente bisogna che i grandi fondi di investimento internazionali tornino ad avere una raccolta netta positiva. Finché non tornerà liquidità dentro i fondi, non ovviamente non torneranno gli acquisti su anche sulle grandi banche. L'idea è che entro il prossimo trimestre la situazione si dovrebbe stabilizzare, soprattutto dopo la chiusura dei bilanci di fine anno, quando dovrebbe essere fatta chiarezza definitiva su le eventuali svalutazioni su titoli tossici che ancora restano e aleggiano un po' in pancia alle varie banche internazionali. Si susseguono rumors di vari tipi. Però diciamo che per il momento di preoccupazioni sulla solidità delle banche in Europa non ce ne sono, anche grazie alle garanzie dello Stato nei vari paesi europei, per cui diciamo dal punto di vista dei clienti delle banche non si intravedono problemi. Da un punto di vista degli azionisti La previsione è che ci vorrà qualche mese prima che la situazione si stabilizzi, dopodiché si ritornerà a guardare alla redditività caso per caso delle singole banche e non vedremo più questi crolli indifferenziati, si tornerà un po' a distinguere, ecco, perlomeno. Sì, in questo momento è chiarissimo che il mercato non fa il cosiddetto stock picking, ossia andare a scegliere le azioni facendo distinguendo tra caso e caso, fa lo stock selling, cioè vende tutto o perché su un fronte guadagna o perché sull'altro fronte perde troppo. Grazie a Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la chiusura di borsa. Già ne abbiamo parlato molto, insomma Francoforte alla fine ha guadagnato l'11,3%, pazzesca sta storia di Volkswagen dopo l'annuncio che Porsche ha più di 2/3 del capitale. E a questo punto, mentre Parigi più 1,5, Londra più 2,4, l'America sta guadagnando quasi il 2%, peccato a questo punto Milano, veramente l'unica borsa negativa, perde il 2,4% sull'S&P MIB e l'1,5% sul MIBTEL. Come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, il commento. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Eleonora, quanto ha chiuso Volkswagen alla fine? Sì, guarda, i titoli sul finale, sto aprendo il DAX, devono ancora assestarsi perché purtroppo abbiamo leggermente ritardate le quotazioni, comunque più 86,41% a 878 euro. Figurati. Vabbè, e quindi di nuovo dopo il 170% di ieri, oggi un altro 80-87% di rialzo. Passiamo a Piazza Affari, perché insomma vedere Milano perdere il 2,5% con tutte le borse guadagnare quasi il 2% dispiace parecchio. Unicredito meno 13%, peggior titolo dell'S&P MIB, Intesa meno 8,4%, secondo peggior titolo. Chiudiamo con i bancari perché anche Generali ha perso il 3,80%. E la Popolare di Milano il 3,20. Intesa e Unicredito, ne abbiamo già parlato con Alessandro Graziani, chiaramente sospesi più volte per eccesso di ribasso nonostante le varie rassicurazioni. E di Intesa San Paolo è ancora in corso il consiglio di sorveglianza? No, è terminato, tant'è che l'amministratore delegato di Intesa passerà adesso presso CAI, che ricordiamo, certo, controllerà Alitalia, e quindi assolutamente finito, non è uscito niente, nessuna notizia. D'altra parte il mercato continua a sospettare, non c'è fiducia nei confronti appunto dei gruppi bancari, si temono ancora brutte sorprese e quindi si preferisce vendere i titoli. Allora, vedo delle ipotesi strane, la fusione tra Intesa e Unicredito. Vabbè, è il momento anche un po' delle ipotesi così più meno prive di fondamento, con meno fondamento. A2A meno 5%, Autogrill meno 4,4%, Mediaset meno 4%. E allora vorrei capire se c'è qualche novità su A2A e su Autogrill, anche perché l'euro è debole. Sì, esatto, guarda, in verità oggi diciamo che il mercato e soprattutto numerosi titoli hanno cambiato in continuazione direzione, anche in questo caso non ci sono motivazioni esatte e precise sul fatto che abbiano registrato questa performance. Un esempio su tutti, la stessa Luxottica questa mattina saliva anche con vivacità sull'ipotesi che i conti che darà proprio oggi trimestrali siano buoni, peraltro comunque nella notte l'euro è scivolato a quote molto basse sul dollaro e anche adesso passa di mano 1,2496, tutto dovrebbe favorire Luxottica, ma nel pomeriggio poi i titoli hanno imboccato la strada del ribasso chiudendo con un calo dell'1,9%, quindi c'è molto nervosismo, è difficile fare anche commenti sui singoli titoli se non ci sono proprio delle storie o dei dati oppure delle voci, si tratta di un mercato molto tecnico. Molto tecnico, ma anche a ribasso in Italia. Bene invece Saipem più 6,3, Terna più 6, Fondiaria più 5,5, Unipol più 3,3, Parmalat più 3,1, Lottomatica più 2,80, Mediolanum più 2,7, Seat Pagine Gialle più 2,2, Enel più 2,1, Estima Electronics più 2%, l'1,7 lo hanno guadagnato Snam Rete Gas e Fastweb, 1,5% rialzo di Italcementi e il Monte dei Paschi. Allora, bene, tutti questi titoli, in particolar modo abbiamo visto un forte rialzo per Saipem e Terna, a cui comunque fa seguito anche quello di Snam Rete Gas. Esatto, Saipem viene premiata per il fatto che la società continua a siglare contratti nonostante appunto l'andamento del petrolio, che è in netto ribasso. Oggi in particolare è stata data notizia che la società ha siglato un nuovo contratto offshore per 1,1 miliardi e questo peraltro dopo altri contratti annunciati in Venezuela e Perù, quello di oggi invece in Azerbaigian e in Sud America. Quindi il dinamismo della società viene assolutamente premiato da Piazza Affari. Per quanto riguarda invece Terna, oggi sono stati dati i conti dei primi 9 mesi, che sono stati in linea con le attese degli analisti, ma soprattutto l'amministratore delegato Cattaneo ha confermato i target per fine anno e ha detto inoltre che anche la politica dei dividendi è confermata e dovrebbero crescere almeno del 4%, quindi ovviamente tutte notizie molto positive per Terna, che sul finale è salita del 5,9, ma che nel durante della seduta era arrivata a mettere a segno un progresso di oltre l'8%. Grazie, Eleonora Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Bene, anche Finmeccanica, anche se poi ha frenato nel finale, più 0,7%. Ripeto, oggi su Sole 24 Ore una dichiarazione del numero uno, Pier Francesco Guarguaglini, che ha detto: confermeremo i 41 centesimi di dividendo anche nel 2009. È una delle prime volte che sentiamo una dichiarazione così forte, quasi audace, visto il periodo, anche sul 2009. Lo abbiamo intervistato poco fa. Dunque, alcuni di voi chiedono: è l'inizio della fine, per citare Churchill? Non sappiamo neanche se sia la fine dell'inizio, vediamo come andranno i prossimi giorni le borse. Ancora criticano la mia pronuncia di Volkswagen, avete ragione, Volkswagen, ce l'ho fatta. Adesso però parliamo di Finmeccanica, perché ripeto, confermato oggi in un'intervista a Sole 24 Ore il dividendo non solo del 2008 ma anche sul 2009 a 41 centesimi di euro per azione. Da qui e a partire da questo abbiamo chiesto al numero uno di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, come mai e anche come sta andando con l'operazione molto delicata e molto cruciale che costa non poco, i miliardi di euro, siamo a 3 miliardi e mezzo di euro, sia l'acquisizione di DRS Technologies. Comunque sentiamo come mai Finmeccanica ha confermato il dividendo. Noi nel 2009 sicuramente confermiamo il dividendo del 2008 per azione, quindi significa questo distribuire maggior dividendi, in quanto per quella data noi avremo un numero nettamente superiore delle azioni che passeranno da 425 milioni a circa 580 milioni. Quindi 41 centesimi di euro, che sono quello che distribuirete nel 2008, anche nel 2009? Certo, dato che noi ci sentiamo solidi dal punto di vista finanziario e abbiamo ottimi risultati previsti che confermiamo quelli che abbiamo presentato agli investitori durante l'anno, quindi sia ricavi che EBIT che cash flow, quindi ci sentiamo tranquilli e quindi possiamo dichiarare di distribuire un dividendo di 41 centesimi per azione. Per quello che riguarda l'indebitamento finanziario netto, dopo l'operazione e l'acquisizione, il perfezionamento dell'acquisizione con l'americana DRS Technologies, passerete da 1,150 miliardi di euro a circa 3,5 miliardi. È un indebitamento che secondo voi in realtà è più che sostenibile? Dunque, questo indebitamento rappresenta praticamente la metà del valore di Finmeccanica, è un valore sostenibile. Noi pensiamo di poterlo alla fine dell'anno di avere un valore leggermente inferiore a quello, quindi a 3,5, e quindi è sostenibile. Per di più va tenuto conto che il nostro prestito, a parte la prima quota che verrà rimborsata in novembre dopo l'aumento di capitale, prevede i rimborsi nel 2010 e nel 2011, quindi niente nel 2009, mentre noi prevediamo che sia Finmeccanica che DRS abbiano cash flow positivi, quindi questo indebitamento diminuirà nell'anno. Per cui voi siete riusciti a ottenere, ingegner Guarguaglini, dalle banche una cifra intorno, diciamo, al al 1,5 miliardi, 2 miliardi, e in questo momento non temete, voglio dire, è un periodo molto delicato per chi ha linee di credito aperte con le banche. Voi non avete avuto nessuna pressione da parte delle banche sul prestito che avete ottenuto? Noi praticamente abbiamo contratto questo prestito con un accordo fatto alcuni mesi fa. Il prestito riguarda 3 miliardi e 6 di euro, di cui 1 miliardo e 2 è rimborsabile ora a novembre con la mezza capitale, e l'altro, come dicevo prima, è rimborsabile al 2010-2011. Questo prestito ci è servito non solo per acquisire DRS, ma per garantire anche il debito che ha DRS. Quindi nel caso che non dobbiamo rimborsare quel debito, noi avremo disponibilità finanziarie. E veniamo proprio a DRS Technologies. È un gruppo americano che pochi conoscono qui in Italia, ma realizza tutti i sistemi di supporto, sistemi elettronici e tecnologici di supporto, per esempio per i caccia americani, gli aerei da caccia, gli F-16, per i carri armati Abrams, che è il carro armato dell'esercito americano, per gli elicotteri Apache. Insomma, è nel suo settore un colosso e molti dicono anche un elemento strategico. L'avete pagata 5 miliardi e 200 milioni di dollari. Alcuni hanno detto il prezzo è un po' alto, voglio dire, i ricavi ci sono stati, per carità, in DRS, ma lei è ancora convinto che il prezzo fosse corretto? Ma soprattutto, con il dollaro che si rafforza e l'euro che si indebolisce, voi ne state avendo uno svantaggio o un vantaggio? Partendo dal primo, DRS non è conosciuta al di fuori degli Stati Uniti, perché praticamente il 95% del proprio fatturato è fatto negli Stati Uniti, e di questo 95% il 60% è con l'esercito degli Stati Uniti, quindi è sicuramente una società strategica per il governo degli Stati Uniti, e quindi è un grande vanto nostro essere riusciti ad avere l'autorizzazione all'acquisizione. Chiaramente questo ha significato per noi dare certe garanzie. Contemporaneamente noi nel momento in cui abbiamo firmato l'accordo preliminare, cioè quello prima di tutti i permessi, siamo riusciti a coprire il dollaro, quindi ha un valore di cambio euro-dollaro 1,55, quindi il fatto che oggi il dollaro valga nettamente di più del passato a noi ci favorisce, perché non ci incrementa il costo, perché ormai il cambio era quello a suo tempo definito, ma aumenta sicuramente l'EBIT in euro e il fatturato. Cioè, detto banalmente, il valore è 25-30%. Detto banalmente, eravate coperti sul rischio cambio, e per di più, aumentando il valore del dollaro, il fatturato dell'americana DRS aumenta di valore rispetto all'euro, nel senso che adesso l'euro è a quota più o meno 1,23, 1,24, 1,25. Quindi rispetto a 1,55, certo, la differenza sotto il 32 che rappresenta il 20%. Quindi il fatturato previsto è DRS era 3,5 miliardi di dollari, è chiaro. E quindi in euro a suo tempo sarebbe stato poco più di 2, ora è più di 2,5. E quindi ne avete un vantaggio sia sul fatturato che sviluppa DRS Technologies, perché lo fa in dollari, un po' come, adesso se mi permette il paragone, quello che capita a Autogrill piuttosto che a Luxottica, cioè a gruppi italiani che hanno parte dell'attività che fattura in dollari, e ne avete un vantaggio su questo, e comunque vi eravate ricoperti a suo tempo, adesso non possiamo spiegarla tecnicamente, dal rischio cambio, cioè dal rischio che... Certo. Da 1,55 il rapporto euro-dollaro scendesse a 1,25 come adesso. Un'ultima domanda, ingegnere. A questo punto voi negli Stati Uniti, restando proprio al mercato americano, avete fornito l'elicottero alla Casa Bianca, avete fornito gli aerei da trasporto tattico, il C-27J Spartan, all'esercito e alla marina, siete in ottimi rapporti con altre forniture militari, e con DRS Technologies acquisite la principale società nel fornire tecnologie alle forze armate americane. È chiaro che, per tornare all'esempio di prima, anche voi come altri gruppi italiani iniziate a sviluppare un fatturato rilevante negli Stati Uniti. Secondo lei, dalle elezioni americane, vincesse Obama o vincesse McCain, può arrivare anche una variabile, quindi una modifica delle vostre attività dalle commissioni del Pentagono, oppure voi avete ormai contratti chiusi per cui andate avanti per i prossimi anni sulla base degli accordi già presi? Dunque, noi abbiamo già dei contratti chiusi. È chiaro che l'elicottero presidenziale potrà subire delle modifiche come prodotto, ma il programma in sé è ben definito. C'è da definire alcuni particolari che dipenderanno dal nuovo presidente questo senza inficiare il programma. Per quanto riguarda il C-27J, l'esigenza di trasporto delle forze armate è elevato e quindi è un programma da 74, mi pare siamo già arrivati a 96 aeroplani da acquisire, penso che il programma continuerà. Per di più gli americani questo lo stanno proponendo a vari alleati loro e quindi questo è un programma sicuramente di successo. Per quanto riguarda DRS, che è una società che supporta molto il day by day delle forze armate, non credo che né Obama né McCain pensino di tagliare questa attività, quindi noi siamo convinti che procederemo e che gli Stati Uniti saranno per noi il secondo mercato dopo l'Italia. Bene, almeno Finmeccanica, come abbiamo sentito, conferma il dividendo, avendo sicurezza che tra il dollaro più forte e le ricoperture grossi problemi non ce ne saranno. Visto che parlavamo del gruppo, oggi vale la pena ricordare che anche Ansaldo STS ha guadagnato il 5% in borsa, il peggior titolo in assoluto... Crédit Agricole meno 15, Société Générale meno 12,3, poi Unicredit e Intesa. Il miglior titolo Immobiliare Lombarda più 15, Milano Assicurazione più 8,80. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso della nuova Alitalia e poi degli Stati Uniti. Partiamo dall'Alitalia. È durata un paio d'ore l'assemblea dei soci della CAI, chiamati a varare la trasformazione della compagnia aerea italiana da SRL in SPA e l'aumento di capitale, la nomina del consiglio di amministrazione, il mandato da attribuire al consiglio per presentare formalmente l'offerta per comprare Alitalia. Ieri sera nulla di fatto nell'incontro tra la CAI e i sindacati, sono stati solo approfonditi i criteri di selezione dei 12.640 lavoratori che saranno assunti nella nuova Alitalia, 3.400 gli esuberi invece, e 3.350 per la precisione. Sui contratti, il numero uno della CAI, Rocco Sabelli, ha confermato che gli accordi di Palazzo Chigi sono assolutamente immodificabili. Domani alle 14.30, nuovo incontro tra la CAI e i sindacati. Nel frattempo, oggi, come dicevamo, aumento di capitale da 1,1 miliardi di euro, un consiglio di amministrazione a 15. Per quello che riguarda la borsa, ha detto la CAI potrà andare in borsa solo fra 3 anni e sempre Roberto Colaninno, il presidente, ha detto sul socio straniero decideremo a novembre e resta comunque le chance, da quello che si è capito, sono su due nomi, o Air France o Lufthansa. Sempre per quello che riguarda le dichiarazioni di Colaninno, all'uscita, al termine dell'assemblea della CAI, c'era la nostra Valeria De Rosa, queste le indicazioni arrivate dopo il consiglio. Il consiglio di amministrazione è formato da sottoscritto Rocco Sabelli, Gianluigi Aponte, Massimiliano Boschini, Francesco Caltagirone, Carlo D'Urso, Corrado Fratini, Andrea Guerra, Salvatore Mancuso, Fausto Marchionni, Francesco Mauro Mattioli, Gaetano Micicche, Angelo Riva, Carlo Toppe e Marco Tronchetti Provera. Il primo consiglio si riunisce venerdì a Roma, la data è ancora da fissare, con un proprio ordine del giorno. Come voi sapete, entro il 31 noi dovremo presentare l'offerta definitiva al commissario. Naturalmente questa offerta sarà presentata se entro quella data ci sarà l'accordo con i sindacati, che pensiamo che ci sarà, e questa offerta diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell'operazione da parte di Bruxelles, della Commissione, che è attesa per la seconda parte del mese. E questi tempi, se sono questi tempi indicati da Roberto Colaninno, i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere la partita, a cominciare proprio da domani. Perché domani alle 14.30 l'amministratore delegato della CAI, Rocco Sabelli, incontrerà di nuovo i sindacati, e lo ha ricordato lo stesso Sabelli, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa. Compagine compatta, è stato fatto ciò che avevamo in programma, aumento di capitale deliberato, dato mandato, trasformazione, e adesso abbiamo un sacco di cose da fare, tutte nei prossimi 2-3 giorni. Tutto, licenze di volo, partner, abbiamo da lavorare tanto allora lì. Sapete che c'è voglia da parte nostra e bisogno da parte dell'azienda, quindi abbiamo da fare tante cose, il partner, l'offerta, le licenze di volo e anche la trattativa sindacale. Si ricomincia? Bene, parleremo, discuteremo, pazienza e velocità. Una trattativa sindacale dura, impegnativa, in un momento così serio, delicato per tutti, per noi, per le persone interessate, per i sindacati, è una roba seria. E soddisfazione per i risultati raggiunti oggi, comunque l'ha espressa il numero di Intesa San Paolo, Corrado Passera, che, lo dico già a chi sta scrivendo, non ha voluto parlare del titolo. Il titolo oggi è il peggiore di borsa dopo Unicredito. Le due più grandi banche italiane, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, hanno perso: Unicredit il 12%, Intesa il 9,4%, e così Milano ha perso il 2,4% sull'S&P MIB in una giornata in cui tutte le borse europee hanno guadagnato quasi il 2%, l'America sta guadagnando il 3,2%, fra poco ne parleremo, Francoforte l'11,3% grazie a Volkswagen, altrimenti si arrabbiano gli ascoltatori, Parigi più 1,5%, Londra più 2%, comunque sentiamo Passera sulla CAI. Tutte le scadenze sono state rispettate. Oggi c'era da fare la società per azioni, dare il capitale, fare lo statuto. È stato nominato il Consiglio farà la proposta compatibilmente agli accordi sindacali, ma tutte le scadenze sono state rispettate. I soci sono diventati di più, le risorse per fare ci sono. Quindi soddisfazione anche del numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Oggi nel frattempo il commissario straordinario Fantozzi dell'Italia ha detto la liquidità c'è fino a novembre, e poi ha detto, insomma, siccome Sabelli, il numero uno della CAI, ha detto beh, non abbiamo molta fretta, Fantozzi gli ha risposto no, bisogna che inizi ad avere fretta perché la liquidità che abbiamo è appunto fino a novembre. Adesso però le informazioni per chi è in viaggio, poi l'ultimo tema di questa giornata. Morgan Stanley ha perso il 23% in borsa, è arrivata a perdere il 23% in borsa in America, Goldman Sachs il 10%, in un giorno in cui la fiducia dei consumatori americani è crollata al livello più basso dal 1967 e contro ogni previsione degli ormai così poco in grado di prevedere le dinamiche dell'economia, ossia gli analisti che non ne azzeccano in questo periodo. Ultimo tema di questa puntata, sì, confermo che le azioni Volkswagen hanno guadagnato quasi il 90% oggi, ieri il 170%. Per cento, ultimo tema di questa giornata, l'America, qualche notizia negativa, del resto non sono periodi in cui di là dall'oceano arrivano notizie positive, soprattutto sullo sfondo, siamo a una settimana dalla decisione, della notte elettorale che deciderà quale sarà il prossimo presidente della più importante economia al mondo. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Mario, buonasera a voi. Allora, partiamo dalla cronaca e poi andiamo invece allo scenario. Morgan Stanley è arrivata a perdere quasi il 24%, Goldman Sachs il 10%, crollo della fiducia dei consumatori americani al minimi dal 1967, i prezzi delle case nel mese di agosto sono crollati del 16% in America. Andiamo tutti quanti a Miami a comprare casa, visto che ormai sono arrivati a 1.000-1.500 dollari al metro quadro. E Volcker, l'ex presidente del Federal Reserve, Paul Volcker, ha detto: non c'è nessun dubbio, l'America entrerà in recessione. A te la sintesi. Ma direi la sintesi la vediamo dall'andamento del mercato. Come tu stesso hai detto, i titoli bancari sembrano non riuscire a tenere nervi saldi, continuano in qualche modo a mostrare debolezze, soprattutto Morgan Stanley, adesso è almeno 10, quindi ha recuperato un pochettino, Goldman Sachs meno 6%, un analista con cui parlavo la definiva problematic self-fulfilling fear, che vuol dire, così lo potremmo tradurre come una problematica paura che si autoalimenta, quindi la paura che porta paura, per cui il tafazzismo, non si dà credito. Il tafazzismo, se vuoi una sintesi ancora più sintesi. Ossia, il farsi del male da soli, prego Mario. Benissimo, ecco. Allora, il discorso è che Wall Street ha recepito queste notizie sui finanziari con un po' di preoccupazione, soprattutto la fiducia dei consumatori, questo dato sceso a 38, a quota 38, questo indice misurato dal Conference Board, ci si aspettava il 51, è stato a 61 a settembre, quindi un crollo, una caduta drastica, allora la borsa ha fatto un po' marcia indietro, poi però direi ci si è accorsi, appunto, come era giusto che capitasse, che insomma questo dato non poteva essere diverso. Il mese di settembre-ottobre è stato un mese in cui siamo stati bombardati dalle peggiori catastrofiche notizie che si potevano sentire nel mondo della finanza: fallimenti di banche, interventi del governo, impossibilità da parte delle autorità centrali di contenere queste perdite, cadute del 10% anche in un sol giorno degli indici di borsa, titoli bancari che sembravano dovessero fallire. Beh, direi che il fatto che ci fossero altre notizie positive, per esempio la caduta del prezzo del petrolio, qui in America è sceso di circa un dollaro al distributore, potevano portare qualche forma di rassicurazione, ma direi che tutto scompare davanti a quello che succedeva sulla finanza, e quindi è normale, lecito che ci fosse questa reazione dei consumatori. Per cui ti dirò, a me non preoccupa più di tanto. È vero che sembra che questo si tradurrà da un punto di vista tecnico in un calo del 3,5% delle spese al consumo, forse già nel mese di ottobre o a novembre, quindi in vicinanza, nell'approssimarsi della stagione natalizia, ma anche quello era un dato più o meno scontato. Quindi che succede? Che il mercato poi si è ripreso, adesso siamo tornati a un aumento di circa il 3%, siamo più 250, 8.425, l'altalena continua e quindi ecco, fra gli elementi devo dire che non aiutano, a parte i dati che tu hai citato, appunto la caduta dei prezzi delle case 16% rispetto all'anno scorso e poi questo dato sulla fiducia dei consumatori, ci sono anche difficoltà per mettere insieme il pacchetto da 700 miliardi di dollari. Cosa intendo per metterlo insieme? Cioè per farlo funzionare, per renderlo operativo, non si trovano le compagnie finanziarie che a un certo punto si prendono la responsabilità a 50 miliardi per uno, 30 miliardi per uno, per cominciare a comprare, rilevare questi titoli tossici. Si sta negoziando, il Tesoro sta facendo le sue selezioni, e fino a quando questi soldi non cominceranno a circolare davvero sul mercato, certo, insomma avremo una situazione problematica. Allora, occorre che la linfa vitale passi per i canali, se no. Allora, Mario Platero, questa è la situazione al momento. Tra l'altro, appunto, come tu ricordavi, Wall Street adesso è in continua crescita, più 3,2%. Tra due giorni ci sarà la prima stima sull'andamento del PIL americano nel terzo trimestre dell'anno, dato molto atteso per capire quanto ha frenato l'America, e dato che arriverà a quel punto a quattro giorni dalle elezioni. Ci confermi, tu ti stai preparando, sarai una delle colonne portanti della lunga notte elettorale di Radio 24, ripeto, dalle 22 alle 11 di mattina e poi GR Extra Large. Confermi il fatto che tutto questo scenario, anche il crollo della fiducia, va ad avvantaggiare o andrà ad avvantaggiare Obama oppure no? Direi senz'altro, la svolta, e l'abbiamo segnalata sul nostro giornale, c'è stata il famoso lunedì in cui Lehman dichiarò fallimento e la borsa perse 700 punti, anzi 777 punti. Ecco, direi che se dobbiamo identificare un punto di svolta a vantaggio della campagna Obama è stato proprio quel famoso lunedì nero. È stato attorno a quel fallimento Lehman e a quella caduta di borsa che poi ha aperto le vendite senza più alcun contenimento che ha spostato drasticamente l'opinione pubblica sul messaggio più serio, più posato, più intelligente, non sensazionalista di Barack Obama. Ecco, è stato in quel momento che Barack Obama ha cominciato ad accumulare il vantaggio di cui gode ancora oggi. Ecco, naturalmente le elezioni sono martedì. Alle elezioni, come sappiamo, può succedere di tutto. Sto lavorando a un'intervista che pubblicheremo domani con Lynn Forrester de Rothschild, che era la moglie di Evelyn Rothschild, il banchiere, che era una sostenitrice di Hillary Clinton e poi è passata al campo di McCain. Ebbene, continuano ad esserci persone che pensano che forse all'ultimo momento McCain potrà farcela, sì, in Ohio, e la gente pensava quello. Non credo, è una situazione molto difficile. Sì, però il dato, tu ricordavi la Rothschild, il pensiero della Rothschild, però è anche vero che in America un conto è avere la maggioranza di voti, un conto è vincere nei singoli, diremo noi, collegi, perché tu puoi avere anche 10 punti di scarto, ma se poi perdi nei vari collegi importanti puoi anche vincere tantissimo in alcuni stati e poi vai a pareggiare o a perdere in altri stati. Molto molto aperta, io sono d'accordo con te che non i sondaggi dicono una certa cosa, ma l'America profonda, come si chiama, Midwest, insomma, qualche obiezione sicuramente non di carattere economico e sicuramente nemmeno forse così esplicitabile, così raccontabile, ci si vergogna un po' a dirla, ma insomma ci sono dei problemi che riguardano Obama anche, diciamo, sulla sua, su quello che rappresenta per un certo tipo di America tradizionalista. Detto questo, staremo a vedere, da qui inizia un conto alla rovescia in qualche modo verso la grande notte elettorale americana. Molti vedono in questo la capacità di cambiare anche il corso delle cose. Grazie Mario Pratero, corrispondente su 24 ore dagli Stati Uniti. Da Sebastiano Barisoni veramente è tutto, e adesso vi lascio la nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, saremo in diretta dal World Business Forum che si terrà qui a Milano alla Fiera.